Pigi il verde ora. Ma subito. Te ti addormenti. Pigi il verde, dai. Tutti convocati di Carlo Genta. Finisce in questo momento, la Serbia batte l'Italia per 10-8. La Serbia sfiderà la Croazia per il titolo olimpico. All'Italia resta la finale per il bronzo con il Montenegro, ma è sicuramente un successo comunque per il mondo della pallanuoto italiana. Un successo comunque. All'attacco lupo il muro di Alisson. No! È finita! L'arbitro dai quattro tocchi. Ma perché se... L'arbitro dai quattro tocchi. Finisce qui. C'è la festa del Brasile. Su Copacabana sventola bandiera brasiliana, ma noi, Lupo Nicolai, siamo nell'Olimpo dei grandi del beach. Comunque, ragazzi, non ha tutti i torti Gianmarco Pozzecco quando ci raccontava l'altro ieri sera che forse è meglio il bronzo, perché almeno finisci il torneo con una vittoria, mentre l'argento, che è molto più pesante, molto più difficile, che continua a considerare una medaglia vinta, non può essere considerata una medaglia dei perdenti assolutamente, è un po' più difficile da digerire anche ad anni di distanza. Quindi Lupo Nicolai, applausi interminabili, erano sfavoriti contro i mostri brasiliani, però rimane l'amarezza, così come nella pallanuoto la Serbia era più forte, eravamo sfavoriti, però rimane l'amarezza. Io saluto e ringrazio il mio amico Gianni De Biasi, CD dell'Albania. Ciao Gianni. Ciao Carlo. Stai guardando le Olimpiadi? Ma a spizzichi e bocconi, perché spizzichi ho avuto problemi con la ricezione, ero fuori e quindi non ho avuto grandi possibilità. No, c'è chi però dice ho seguito, che... ho seguito le imprese dei nostri, sicuramente poi i riflessi su internet e quant'altro apprezzare. Guarda, ieri mi hanno portato qui una medaglia d'oro, è passato Elia Viviani con la medaglia d'oro, me l'ha appoggiata sul tavolo davanti. È un bel effetto, credo. Tanta no? roba, tanta sì, roba Gianni. Direi proprio. Senti, parliamo invece, vorrei inquadrare con te un grande classico, visto che dell'erotismo calcistico, il via del campionato. Allora, sentiamo questa copertina e poi ci facciamo fare le carte del campionato da Gianni De Biasi, uno dei nostri tecnici più popolari. Le avversarie rimangono la Roma, il Napoli, l'Inter, e poi ci può essere un outsider, non si sa. Penso che comunque sarà un campionato difficile anche quest'anno. Io vedo bene la Roma, secondo me è una grande squadra, c'ha tanta qualità, anche un grande allenatore, Spalletti molto, molto preparato. Secondo me la Roma sarà lì fino alla fine, poi dipende, sai, c'è l'Inter che ha fatto comunque un mercato interessante, il Milan che ha preso Montella, grande allenatore, sì, queste squadre lì. Fare un anno diverso, credo che si può lavorare e fare un anno diverso per la Roma e vincere lo scudetto, perché per me basta vedere la Juve vincendo questo scudetto, io non te la faccio più. Ho detto pure a loro che questo anno lo scudetto deve essere nostro. Pronti, partenza! Via, pronti! Allora, questi erano i pronostici di due dei giocatori della squadra favorita, Barzagli e Benatia, che per inciso, non so se si è dimenticato o ha volutamente tralasciato il Napoli nella griglia dei suoi pronostici, includendo tutte le altre. Barzagli, Benatia e Bruno Perez, che ha detto: sono stufo di vedermeli davanti, voglio vincere lo scudetto, sarà molto difficile. Gianni, sarà un campionato stile Bundesliga con una Juventus nei panni del Bayern Monaco, piglia tutto? Ma guarda, è difficile sbilanciarsi oggi con dei pronostici. Credo che la Juventus a livello tecnico sia la squadra più forte, a livello di mentalità e a livello di club sia sicuramente la squadra che ha dimostrato di avere lungimiranza, di non fermarsi mai su quello che ha. Che ha guadagnato sicuramente lo spirito di provare a far sempre meglio, credo che questo sia un aspetto importantissimo. In più credo che l'inserimento di Higuaín possa dare grande risoluzione alla fase offensiva, ma credo al tempo stesso che la Juve, il proprio potenziale, la propria forza nasca da quei quattro dietro lì, da Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini. Io credo che questa sia la forza, sia la vera spina dorsale all'interno della squadra e all'interno dello spogliatoio, che non è cosa da trascurare. No, poi per quanto riguarda le altre pretendenti, credo che il Napoli, con un anno in più di esperienze sotto la guida di un allenatore capace, esperto come Maurizio Sarri, possa fare sicuramente bene. Gli mancherà probabilmente il potenziale davanti di Higuaín, ma se riesce a crescere ancora di più come insieme, io credo che sia una squadra che può far male a tanti. La Roma, io sono molto convinto che Spalletti sia un grandissimo allenatore e possa sopperire forse alle carenze dal punto di vista tecnico del suo organico, però lui ha mestiere, ha il polso della situazione ed è molto bravo, è diventato bravissimo nella comunicazione, molto molto bravo. Da quando è tornato dallo Zenit ho rivisto uno Spalletti molto più maturo e molto più consapevole. Quindi questa è la tua griglia. L'Inter non la metti, io la metterei sul piano del Napoli e della Roma, ma così come sensazione, perché Non lo so, Carlo, perché l'Inter è, secondo me è in un momento di, passami il termine, confusione. Sì. Di confusione, perché si aspettava tantissimo tempo a fare chiarezza, a prendere una linea strategica che fosse decisiva. E questo sicuramente le ha fatto perdere un sacco di tempo, un sacco di lavoro che sicuramente De Boer non ha potuto svolgere. Oggi è un'incognita, secondo il mio punto di vista. Poi, come sempre, può accadere che il Perugia di Ilario Castagnari arriva secondo in campionato, imbattuto. Ecco, questo è il concetto. Però dire che oggi l'Inter possa essere una tra le squadre pretendenti al titolo, Mi viene difficile, perché sono i risultati degli ultimi anni. Pretendente può essere al titolo degli umani, che sono secondo me dalla Juventus in giù, Roma, Napoli, esatto. E poi outsider tra cui possiamo metterci l'Inter. Però sei d'accordo con me, sì, che il peccato originale per un qualunque club, e lo sarebbe stato anche per l'Inter, è quello di iniziare la stagione, quindi di confermare all'inizio della stagione un allenatore nel quale il club non crede più e di riflesso i giocatori non credono più. Secondo me questo è stato il peccato originale del Milan con Zaccheroni, ma posso citarti mille esempi diversi, dei quali anche con l'Inter, da Hector Cooper a molti altri, insomma. Gianni, sì, no, ma io credo che la società sia alla base di quelli che sono poi i successi del team, della squadra. Se non si hanno le idee chiare, se non si ha la capacità di decidere, e anche con decisioni sicuramente importanti che possono creare problematiche a tutti i livelli, vuol dire che manca la struttura della società in quel punto lì. Io credo che l'Inter abbia tergiversato troppo, si sia barcamenata cercando di risolvere una situazione all'interno senza probabilmente conoscere fino a fondo quelle che erano le voglie, le determinazioni e quelli che erano poi gli umori dentro lo spogliatoio. Questo è l'aspetto principale. Sì, ti chiedo una valutazione tecnica, che è questa: la Juventus sta cercando un centrocampista dopo aver perso Pogba, anche alla luce degli europei peraltro meravigliosi che hai disputato. Hai trovato un giocatore, hai idea di un giocatore che possa essere una chiave per il centrocampo della Juventus? Oddio, adesso dare suggerimenti alla Juve, che è lungimirante nei suoi... Non ti va, da ex Granata. Non mi va dal punto di vista che io credo che Marotta e in company siano talmente attenti e bravi a sondare il mercato. Ho visto tanti giocatori che possono stare sicuramente bene alla Juventus, anche qualcuno di origine francese, senza scappare molto distante, che possono sicuramente dare un contributo importante a quella che è un po' la filosofia di gioco di Allegri. Piazza è davvero così forte? Piazza è un giocatore che ha grandissimo talento, c'è da vedere se insieme al talento del calciatore cresce anche l'ometto vicino. Questo sicuramente è l'aspetto importante. Non lo conosco personalmente, quindi faccio fatica, perché quei ragazzi giovani che hanno così talentuosi spesso volentieri perdono le loro qualità per altri rivoli che non servono assolutamente nulla. Guarda, mi sei venuto in mente l'altro giorno quando stavo parlando con Charlie Recalcati, che certamente conosci, sì, e gli chiedevo un parere sulla nazionale. Per cosa, qual è la differenza tra la tua nazionale, argento alle Olimpiadi ad Atene 2004, ultima partecipazione, eccetera, e questa dei grandi talenti, dei grandi fenomeni che non riesce a qualificarsi alle Olimpiadi? E lui mi ha detto, quando sento continuamente ripetere siamo un gruppo, siamo un gruppo, siamo un gruppo, ma che bisogno c'è di dirlo? È quasi un ripeterlo per volersi convincere. È quello che mi avevi detto grosso modo tu a proposito della Francia, che poi gli europei li ha persi. Esattamente, però ha fatto meglio di quanto io mi aspettassi, sinceramente. Sì, le è andata anche abbastanza bene. Sì, abbastanza. Piani futuri, Gianni? Vacanze? No, le vacanze sono appena finite e adesso sono pronto a buttarmi nella nuova avventura, nuova per modo di dire, con l'Albania. Mi ributto dentro e vediamo un po' cosa succede nelle qualificazioni mondiali, visto e considerato che abbiamo Spagna e Italia, se ne qualifica una sola direttamente e l'altra spareggia. Vediamo chi delle due spareggia. Bel girone quello lì. Bel come, girone. Battuta non è male. Chi delle due spareggia? Perché noi passiamo da questa. Vabbè, questo è evidente. questo è evidente, possiamo già prepararci. Chi delle altre due spareggia? Esatto. No, la Spagna esce da un momento di ricambio generazionale, anche di ricambio di commissario tecnico. L'Italia pure, fatalmente, e dunque è l'Albania ad avere. Siamo a vivere nel segno della continuità, no? È l'Albania. Sì, sì, sì. Invece, speriamo di avere continuità. Invece, tra le outsider del nostro campionato, chi vedi? Oddio, non so se Sassuolo si possa considerare un outsider ancora, però credo che è difficile poter inquadrarne uno oggi. La Fiorentina, non, rispetto al solito, mi sembra una squadra che ha perso molto di quelle che erano le proprie caratteristiche, che era una squadra che a me piaceva molto nella passata stagione. Sì. È difficile oggi trovare una squadra che possa essere una sorpresa. Sì. Anche perché ti dirò, se sarà una sorpresa, nessuno l'aveva pronosticato. Sì, se ti dico Torino non ci credi? Torino mi piace, mi piace sicuramente Mihajlovic, che ha lo spirito giusto, che ha il temperamento e che l'ambiente sicuramente supporterà. E poi credo che la società abbia lavorato bene, lavorato in accordo con l'allenatore, e questo sicuramente un aspetto molto importante. Certo, grazie Gianni. Grazie a te, Carlo, saluto a tutti. A prestissimo, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Grazie Gianni De Biasi. 800240024, facciamo insieme la griglia, della vostra griglia del campionato. Griglia di partenza è il giocone della vigilia della stagione. Domani si comincia subito con Roma Udinese alle 18 e poi Juventus-Fiorentina. A proposito della Fiorentina, sono d'accordo con Gianni De Biasi, da sensazioni meno interessanti, e non solo per i pessimi risultati estivi rispetto a quella dell'anno scorso, e poi mi sembra uno degli esempi che ho citato prima, cioè di una squadra che si presenta ai nastri di partenza del campionato con un allenatore che forse non è più così amato dalla società, forse qualcosa si è rotto in quel rapporto già dopo il mercato invernale dell'anno scorso. Dunque attenzione a questi problemi, che poi magari verranno risolti dall'andamento della stagione, da un paio di vittorie, da un momento positivo, però questo è uno dei casi in cui si parte con un allenatore, non dico esautorato, ma forse sotto esame. Abbiamo le voci della vigilia di Paolo Sosa e di Allegri. Dato che stavamo parlando di Paolo Sosa, sentiamo subito lui. Comunque io credo che se noi vediamo la Serie A come un thriller, credo che noi vogliamo esserci uno dei protagonisti, sapendo che la Juve è la principale. Credo che questo il sorteggio ci ha dato, per questo dobbiamo affrontarlo così, con il massimo di realismo, sapendo che questa è una squadra che ha dominato in questi ultimi 5 anni, come hai detto te. È una società che riesce sempre a anticipare e a migliorarsi in continuo, e che quest'anno è costruita, basata anche per vincere in Europa. Questo era Paolo Sosa, sentiamo anche Massimiliano Allegri, allenatore pluricampione d'Italia. Una partita molto difficile, innanzitutto perché la Fiorentina anche l'anno scorso, e statisticamente Si vede che dai numeri che nella prima parte di stagione fa sempre degli ottimi risultati. È una squadra brillante, una squadra che ha molta tecnica, non ha cambiato nessuno perché sono gli stessi giocatori dell'anno scorso e quindi sicuramente rispetto a noi saranno più avvantaggiati. Vabbè, Allegri comincia già a trincerarsi dietro a certi discorsi proprio da campionato, proprio da vigilia di prime partite che contano. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito dopo e vi aspetto. È 800 24 00 24 per le vostre telefonate, messaggi, sms, whatsapp al 349 238 6666. Basta vedere la Juve vincendo questo scudetto, io non te la faccio più. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, nei giorni scorsi c'è stato un primo botte risposta tra Juventus e Inter. Alle parole di De Boer sono seguite quelle di Marotta, che ha risposto così. Se la dichiarazione ha fatto De Boer, che è un esperto di calcio, bisogna crederci. Noi facciamo un tesoro e vedremo anche che attraverso questa dichiarazione possiamo magari trovare ancora nuovi stimoli ed essere ancora più forti. Dunque, così Marotta, l'Inter è il grande mistero di questo avvio di stagione, per i motivi che conosciamo, per questa estate difficile, complessa, confusa, incasinata, e ne parlavamo anche prima con Gianni De Biasi. Io continuo a considerarla dal punto di vista dell'organico innanzitutto più forte rispetto all'anno scorso, continuo a credere che con la querella con Mancini sia stato buttato via del tempo e del lavoro, che era quello che Mancini aveva fatto. Continuo a capire a fatica le ragioni del profondo astio che la gran parte del popolo interista aveva nei confronti di Roberto Mancini, e sinceramente arriva ai nastri di partenza del campionato con un alone di mistero intorno, perché c'è un nuovo allenatore, non l'abbiamo ancora visto e non abbiamo ancora visto la sua squadra, e non credo che la vedremo nelle prime battute di campionato. È un allenatore che viene dall'Ajax, da un campionato profondamente diverso, che lì ha vinto, che è abituato a lanciare giovani. Insomma, ci sono tante cose da chiarire intorno al nuovo pianeta Inter. Massimiliano Nebuloni da Sky le sta seguendo. Ciao Max. Ciao Carlo, buongiorno. Mi aiuta ad accendere la luce sull'Inter? Guarda, concordo più o meno su tutto quello che hai detto, nel senso che ho due sensazioni. La prima è che l'Inter arrivi ancora un po' sballottata dal terremoto allenatore di 10 giorni fa. La seconda è che il campo in panchina abbia spazzato via dal cielo di appieno quella cappa di negatività e di pessimismo che si era creata nella prima parte della preparazione, anche e soprattutto tra i tifosi, a giudicare dall'entusiasmo degli ultimi giorni. Io ritengo che, come hai appena detto, se ci fosse stato un pizzico in più di coraggio da parte della società e di Toir, cambiare allenatore, visto che insomma questa tiritera tra Mancini e la società era destinata a portare insomma alla rottura alla quale abbiamo assistito 10 giorni fa, cambiare allenatore 20 giorni fa avrebbe solo giovato all'Inter sotto tutti i punti di vista, soprattutto sotto quello della preparazione fisica, che rischia di ostacolare De Boer, e la stagione sarebbe potuta cominciare in maniera ancora più positiva. Però per il resto hai centrato alla perfezione il titolo e il senso della stagione che sta per cominciare. Sì, l'Inter parte con i fari spenti, nessuno la conosce veramente, ma tu hai già un'idea di quale sarà l'Inter di De Boer e quali saranno le principali differenze rispetto a quella di Mancini? Ma rispetto all'Inter di Mancini, rispetto un po' a tante altre squadre, l'idea di De Boer è quella di portare nel calcio italiano insomma un pressing che applicava il suo Ajax, insomma una difesa più alta che non abbia paura dell'uno contro uno, scendendo proprio sul terreno tecnico. Una squadra molto più predisposta al pressing, ovviamente ci vogliono gli interpreti giusti per insomma suonare questo spartito. La squadra lui l'ha ereditata praticamente in toto, vedremo se sarà bravo con gli uomini al momento a disposizione e con l'assetto tattico che ha deciso, sul quale ha deciso di lavorare, di di dare questa impronta alla squadra, anche se, come ha detto lui recentemente, insomma, gli servirà qualche mese, perché ovviamente nemmeno lui ha la bacchetta magica e riesce a fare i miracoli. Io penso che si andrà verso un 4-3-3 inizialmente, o 4-2-3-1 a seconda della posizione che ricoprirà in campo Banega, che forse è l'elemento che può far fare il salto di qualità a una squadra che l'anno scorso a centrocampo aveva un deficit importante. Non è evidentemente il regista classico che molti si aspettavano, però è un giocatore che può veramente cambiare le partite e dare quel pizzico di imprevedibilità in più che i vari Medel, Melo, sì, Condobbi eccetera non sono mai stati in grado di dare. Chiaro. Ti sentivo raccontare a Sky in un bellissimo servizio l'altro giorno le caratteristiche di De Boer, che è un allenatore che conosciamo da lontano, ma che personaggio è? Come si è calato all'interno di un Inter che è tutto sommato ancora abbastanza confusa, tra cambio di proprietà, tra un presidente che non è più azionista di maggioranza, che decide di cambiare allenatore quando non aveva mai preso una decisione così importante nel corso della sua presidenza a pieno titolo, eccetera, eccetera, eccetera. Che tipo è De Boer? Come si è calato lì? Ma è una persona molto seria, ha fatto subito un'ottima impressione a tutti, del resto l'hanno scelto dopo aver valutato attentamente, insomma, i pro e contro di una sua chiamata. Riporto, mi viene in mente la battuta di un collega di qualche giorno fa, insomma, all'inizio gli allenatori sono un po' come le mogli o i mariti, capovolgendo il concetto, vanno sempre bene, poi col tempo vengono fuori i difetti. Però al di là delle battute, insomma, è uno che all'Ajax ha dimostrato di saper fare crescere anche, di far crescere anche tanti giovani, di portare avanti un determinato tipo di progetto, ed è questo il motivo principale per cui Tohir l'ha scelto. Però insomma, me l'hanno descritto come un personaggio molto rigido per certi versi, che apprezza, insomma, una grande professionalità dei giocatori, non accetta insomma, alcuni comportamenti che magari in passato venivano concessi, e quindi si è calato con l'obiettivo di riportare l'Inter in Champions, visto che ha capito subito che una squadra come l'Inter non può stare fuori dalla Coppa più importante per 5 anni di fila. È un compito complicato, perché insomma abbiamo visto come negli ultimi anni che anche altri allenatori, seppur con Inter molto differenti, insomma, non ci siano riusciti, quindi lo attende un lavoro molto molto duro. No, poi sentiamo che raccontavi anche del fatto che insomma, quando i giocatori arrivano ci tiene a un certo comportamento, al fatto che salutino, al fatto che si presentino puntualmente, al fatto che seguano delle regole. Quindi mi sembra uno che comunque con le idee già chiare e magari non tanto disposto a farsi impressionare, ma anche perché è stato un giocatore comunque di altissimo livello, e ce lo ricordiamo, un giocatore anche di grande personalità. Ma tu credi che all'Ajax ovviamente la mission societaria, il core business, visto che siamo a Radio 24, era quello di lanciare, valorizzare i giovani e poi monetizzarne il talento. Credi che anche all'Inter gli venga chiesta questa politica di valorizzazione dei giovani, o credi che la porterà di suo? No, gli verrà anche chiesto questo, ma l'Inter, con tutto rispetto per l'Ajax, che da parecchie stagioni ormai ha adottato un altro tipo di politica, all'Inter abbiamo visto, insomma, il primo anno della gestione Tohir, che ha cercato di puntare su alcuni elementi giovani, in realtà di scarsa qualità, è subito naufragata, e poi si è, con l'arrivo di Mancini, si è subito scelta un'altra strada, perché servono giocatori già pronti, giocatori anche giovani, ma che facciano subito la differenza, perché in una piazza come Milano non è possibile, insomma, lo avevo visto in questi anni, fare dei progetti a lunga scadenza soltanto basandosi sui giocatori di età molto molto molto giovane e di elementi provenienti tutti dal settore giovanile. All'Ajax e da altre parti si può fare, a Milano soprattutto dopo un po' di stagioni di carestia evidentemente non è possibile, né all'Inter né al Milan, che abbiamo visto sta vivendo una situazione forse ancora più complicata. Molto più complicata. Grazie Max, buon lavoro. Grazie a te, a presto. Ti seguo su Sky, ciao, grazie a Massimiliano Nebuloni. Allora, ieri ha giocato Sassuolo, ha asfaltato la Stella Rossa in casa sua, reti di Berardi, Politano, De Frel, un 3-0 che poteva anche essere più rotondo. Poi possiamo discutere anche della popolazione delle tribune, perché come sapete ieri si è rivisto in tribuna e nei nostri stadi, sui nostri campi e in tutta la sua... dimensione, in tutti i suoi tatuaggi, Ivan il Terribile. Insomma, è chiaro che uno normale può pensare, vabbè, dopo quello che ha fatto a Genova lo buttano in prigione, lo mettono in prigione e buttano via la chiave. Invece no, Ivan Interribile, ma non da adesso, si ripresenta all'interno degli stadi a guidare la sua truppa. Va bene, poi ne parliamo con calma. C'è invece il patron del Sassuolo, Squinzi, Giorgio Squinzi, che ha idee per questa squadra molto ambiziose. Io continuo a pensare che considerare il Sassuolo come una piccola realtà sia un grosso errore. Ormai Sassuolo è stabilmente, anche per investimenti non vuol solo dire spendere milioni di miliardi sul mercato, ma anche avere la capacità di tenere i propri talenti resistendo alle tentazioni di cederli. Ebbene, continuo a considerare Sassuolo una squadra ormai della buona borghesia del campionato italiano, insieme a quelle che conoscete, al Torino, alla Fiorentina, alla Lazio, a queste squadre che tutto sommato rappresentano l'unità di misura del valore di un movimento. Ragazzi, volete fare la griglia del campionato? Per favore, al telefono 800 24 00 24, vedo Alfonso da Padova, ne aspetto altri. Intanto sentiamo Squinzi, che ha le idee abbastanza chiare sui prossimi obiettivi del Sassuolo. L'obiettivo io l'avevo dato, di fare un po' di punti in più rispetto all'anno scorso. Avevo chiesto 2 anni fa a Di Francesco di fare 10 punti in più all'anno, finché ci riusciamo. E l'anno scorso ne abbiamo fatti 12, quindi vabbè, quest'anno faremo uno sconto, ma 8 punti in più rispetto all'anno scorso ce li aspettiamo, il che potrebbe anche voler dire una Champions diretta. Capito le idee del patron Giorgio Squinzi? Quest'anno la Europa League e l'anno prossimo si sale di livello, si tenta di salire di livello. Alfonso, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno ascoltatori. Allora, intanto complimenti come sempre, una bellissima trasmissione. Grazie. Allora, niente, io vorrei andare un po' controcorrente per la griglia, perché io vedo la Juve, sì, va bene favorita, però secondo me potrebbe essere che quest'anno lei faccia un pensiero un po' più alla Champions che non al campionato. Cioè, come una specie di disattenzione, ecco. E quindi io vedrei una sfida tra Roma e Napoli e subito dopo la Juve. Beh, anche l'anno scorso c'era un forte pensiero di Champions League, anche 2 anni fa quando la Juve arrivò in finale. L'anno scorso la Juventus pagò forse questi pensieri di Champions League con un pessimo avvio di stagione, ma poi sappiamo cosa è successo e come è andata a finire. Io credo che si sia terribilmente rinforzata, non credo che cederà alle voci delle sirene che arrivano dall'Europa, anche perché non credo che ne abbia bisogno, cioè può concentrarsi sull'obiettivo europeo con calma. E a rate la Juventus ha un organico molto profondo, molto più forte rispetto all'anno passato. Se poi vogliamo cercare un punto di debolezza, forse può essere quello così adombrato nei giorni scorsi, che può stare nel peso del contratto di Higuain, che può portare ad alcune così discussioni all'interno dello spogliatoio, tra giocatori e società, soprattutto tra giocatori della vecchia guardia e società stessa. Alfonso, è ancora lì? Sì, sono qua. No, perché voglio chiedervi anche un'altra cosa. Sto ricevendo diversi messaggi, ci sono varie così indiscrezioni in proposito. Lei dove manderebbe Balotelli? Ah, io ce l'avrei la destinazione. Però si deve un po' adattare, perché noi a Padova cerchiamo una punta, siamo in Lega Pro e vorremmo tornare in Serie B al più presto. Non so se si adatterebbe a Padova, però potrebbe essere una soluzione. Lei lo prenderebbe? Sì, io lo prenderei subito. Lo prenderebbe anche il presidente dell'Entella, che ho visto ieri sera in televisione, c'era questa bellissima festa di popolo e di piazza dell'Entella, e lui ha detto, ma io no, parlava di Cassano, io Cassano me lo prenderei volentieri, bisogna vedere se ha voglia di venire qui, se abbiamo denari sufficienti per pagarlo. Balotelli invece lo vorrebbe il presidente della Sarnese, che si chiama Origo, e che ha scritto una sorta di lettera aperta tipo: caro Balotelli, la Sarnese ti offre la possibilità di ripartire dal calcio dilettantistico e di dimostrare una volta per tutte che sei un vero campione. Da Sarno la chance per ricordare i valori del calcio puro, dei sacrifici, del fair play, dello spirito di squadra. Sono parole che per Balotelli c'è bisogno del decoder per tradurgliele. Comunque, tutti i valori che sono il baluardo dei Granata, noi possiamo risvegliare le tue doti calcistiche e rivalutare la tua immagine di grande sportivo. Vieni a giocare a Sarno, ti aspettiamo! Non credo che questo appello possa cogliere nel segno, ma anche perché insomma, va bene tutto, va bene trovare una soluzione che possa rivalutare Balotelli come calciatore, come sportivo, se ne ha ancora voglia. Però ripartire dal calcio dilettantistico francamente mi sembra un pelo troppo, non solo per questioni di ingaggio. Marco da Livorno, non mi lasci solo, abbiamo la borsa, dura interruzione di pochi minuti, torniamo subito e poi hai la palla. Tra poco nuove notizie, a più tardi. Pigia il coso rosso, grazie. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Arrivarono con il vento di carnevale Vian e sua figlia Anouk, che a 6 anni il mondo aveva ancora una luce speciale. Audiogrammi Reloaded, una storia come non l'avete mai ascoltata, di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Pierluigi Pardo, ciao! Come va? Molto bene, tu? Bene. Siamo rientrato da Porto, nessun problema. Stiamo preparando Tiki Taka a Ventotene, una cosa che... no? Tiki Ventotene, quindi... Non, Tiki non Ventotene, mica male. Tiki Ventotene, non male. Posso venire? Sì, però ti devi sbrigare. Vogliamo sbrigare, vai. Monterosa, Ventotene. Devo stare qua, se non ci sei tu, io devo presidiare. Io devo andare alla riscafo, rapidamente, poi domani prendere... c'è Rodinese, poi domenica certo. C'è... tutto il resto della giornata, ma sera c'è anche Juve Fiorentina, ma insomma io farò Romudinese, quindi insomma si comincia, dai, ci siamo ormai dentro pienamente, grazie a Dio, sì. Non ne potevo più, con tutto il rispetto per le Olimpiadi che ci regalano emozioni, ma insomma è chiaro che il campionato e la stagione almeno a me danno adrenalina, poi stavamo andando un po' in astinenza, no? questo è chiaro. Marco, ho aspettato te per parlare con Marco da Livorno. Sta partendo anche lui per Ventotene. Marco? Buongiorno alla più bella trasmissione calcistica d'Italia. Grazie. Allora, una considerazione, che poi anche una domanda, e infine il pronostico, visto che l'avete chiesto. Sì. La considerazione è questa: ma com'è possibile che ormai nel calciomercato si parli sempre e soltanto dei soliti giocatori? È perché i fondi di investimento e i soliti procuratori, Raiola e pochi altri, dettano le leggi del mercato, o è per incapacità dei direttori sportivi? Questa è la domanda. Ma quali sarebbero i soliti giocatori, giusto per farsi un'idea? Ma i soliti giocatori, ad esempio, come difensori centrali e come mediani, se fate caso si parla sempre dei soliti 5 o 6, come se in tutto il resto del mondo non ci fossero giocatori altrettanto validi. Sono rimasto molto colpito lo scorso anno quando si parlava solo e esclusivamente di Kondogbia, e io l'ho sempre ritenuto un giocatore sopravvalutato, soprattutto a quelle cifre. Sì, i fatti stanno dicendo questo, poi vediamo. Voleva aggiungere? Voleva aggiungere un pronostico. A regola la Juventus dovrebbe vincere il campionato con 30 punti di scarto sulla seconda, però il calcio è strano. Ma il mio pronostico è che il Sassuolo arriverà almeno quarto in classifica. Ah, quindi è d'accordo con Squinzi, attenzione. Assolutamente sì. Attenzione, sentito Pierluigi e Squinzi? No, non penso questo. Io penso Squinzi che ha detto l'obiettivo passa... Champions League, eh? Allora, abbiamo tutti negli occhi il Sassuolo di ieri sera e credo che sia veramente un'eccellenza italiana e una bellissima storia di programmazione, quindi non è un miracolo, è veramente un grande lavoro fatto di Francesco, fatto dalla società. Ovviamente ti facciamo un in bocca al lupo per Belgrado, ma le cose sono messe già molto bene. E non credo però che il Sassuolo punti ad arrivare quarto, anzi penso addirittura che giustamente se dovesse arrivare alla qualificazione in Europa League, il Sassuolo quest'anno potrebbe fare una scelta diversa. Potrebbe, scelta di vita europea, tu dici? Beh, io guarda, fossi di Francesco farei così, lo dico proprio sinceramente. Tanto arrivare settimi o arrivare undicesimi cambia poco. Invece andare avanti e magari regalarsi un quarto di finale, un ottavo di finale a livello europeo, sia pure l'Europa League, non è la Champions, sarebbe qualcosa di importante. No, il Sassuolo secondo me è nella seconda fascia con la Lazio, con Milan e con Fiorentina dietro alle quattro grandi. Sulla distanza di 30 punti non lo so, però che la Juve sia la più forte sotto perché viene da 5 scudetti consecutivi e poi perché si è ulteriormente rafforzata è indiscutibile. Però io penso che Napoli e Roma siano due squadre che stanno facendo delle cose. Cioè, mentre un mese fa sembrava veramente, c'era se vuoi, l'emotività di questi due grandi colpi della Juve, di due giocatori strappati alle due grandi rivali, sì. Oggi mi sembra che insomma Roma e Napoli abbiano cominciato a fare delle cose. L'Inter la metti sulla stessa linea o un po' indietro? No, le metto dietro, difficile da leggere penso in questo che momento. Ci sia un campionato, cioè non penso che sia una roba inutile, non penso che lo possiamo già assegnare, credo che la Juve sia nettamente favorita sicuramente, però credo che sono molto curioso, sono anche molto curioso di una cosa che diceva Sacchi nell'intervista credo su Gazzetta di oggi, sì. Cioè di capire quanto in realtà, oltre ad aver contribuito Higuain al successo del Napoli, cosa che è indiscutibile, l'anno scorso, quanto il Napoli e il gioco del Napoli abbia contribuito al successo di Higuain. Assolutamente. Sono curioso di vedere il Napoli senza Higuain, sinceramente, perché penso che abbia delle qualità, penso che abbia tanti giocatori in grado di andare in doppia cifra, perché secondo me sia Hamsik che Gabbiadini, ovviamente, che Insigne, che Mertens sono giocatori da 10-15 gol anche nel caso Vediamo di Gabbiadini. Milik. Ma Milik ovviamente appena arrivato, quindi insomma sono molto curioso francamente, e la Roma insomma si è rafforzata alla fine e l'Inter non ce la dimentichiamo perché sicuramente ha perso tempo nel senso che adesso chiaramente De Boer ha pochi giorni per cominciare ad allestire la squadra, però insomma mi sembra che sia cresciuta. Sì, Banega, a me sembra più forte rispetto all'anno scorso, a me sembra più forte, poi adesso è molto difficile da leggere perché cambia allenatore prendendone uno profondamente diverso, straniero, che arriva da un'altra realtà, sebbene molto conosciuto, alla vigilia del campionato, quindi c'è questa nebbia intorno all'Inter, che è anche uno degli argomenti di curiosità di questo avvio di stagione. Ma dicevo l'altro giorno, ho ripetuto molte volte che fare il centravanti nel Napoli, secondo me con Sarri è un gran bel lavoro, mentre ad esempio fare il centravanti nel Barcellona, soprattutto nel Barcellona che era di Guardiola, era un mestiere molto più difficile, tanto che ha incontrato diversi problemi anche Zlatan Ibrahimovic. Per questo saluto Filippo Maria Ricci, è un giro di parole per introdurre Ricci. Buon pomeriggio. Come va Ricci? Bene, posso dire una cosa sul Sassuolo che vi ho ascoltato? Io sono d'accordo con Pierre, Squinti parla di Champions, che ci arrivi alla Champions vincendo l'Europa League, sarebbe spettacolare. Posso dire un'eresia? Non so se sia più facile arrivare quarti o vincere l'Europa League. Forse vincere l'Europa League. Sono tutte e due cose molto difficili, perché l'Europa League, non ci prendiamo in giro, è una competizione complicatissima, è una competizione snervante, enorme, c'ha quei due turni invece che uno a febbraio, fra febbraio e marzo, che sono massacranti, perché per cinque settimane tu giochi quattro volte. Certo. Quindi sicuramente l'Europa League, e infatti penso verrà riformata, è una competizione che diciamo uno un po' gretto può avere la netta sensazione e la tentazione di voler far fuori e di snobbare, come troppo spesso abbiamo fatto in Italia. Però francamente se Squinzi vuole la Champions League e ha pienamente il diritto e l'orgoglio di rivendicarla, io non so se sia più facile arrivare, perché non è facile arrivare qua. Cioè per me Sassuolo non arriva quarto, con tutto l'affetto, l'euforia di ieri sera. L'Europa League, poi con quelle che scendono dalla Champions, con le inglesi che sono rimaste scornate l'anno scorso e che quest'anno andranno comunque a riempire il tabellone, è una competizione estremamente complicata. Per carità, come scelta di vita può essere molto interessante, Filippo. Io lo dico soprattutto perché vorrei vedere un'italiana comunque vincere l'Europa League in generale. Per me questa è una competizione troppo spesso sottovalutata, adesso poi ancora di più ora che dà anche il posto in Champions. Siviglia ci ha fatto la sua storia, ne ha vinte tre di fila. Secondo me in Italia le squadre, appunto, visto che poi comunque c'è una Juventus così forte, è difficile vincere il campionato. Io spero che le italiane, adesso questa la mia era un po' la buttata del Sassuolo, però spero che le squadre italiane veramente ci pensino e puntino seriamente all'Europa League. Per me è fondamentale anche nella crescita del paese. Certo. No, ma come atteggiamento, è un discorso che io e Pierluigi abbiamo fatto un miliardo di volte. Però non attacca questo discorso, lo facciamo sempre. Beh, ma insomma, guarda, due anni fa siamo andati molto vicini, il Napoli sicuramente poteva... è uscito col Dnipro, però francamente io ho fatto la partita di ritorno, mi ricordo anche che è andata benissimo. Una quantità di episodi arbitrali che veramente gridano vendetta, che neanche nella corsa alle Olimpiadi nel pugilato alle Olimpiadi tutti i giudici sono in mano a Putin. Ragazzi, fermiamoci un attimo per... Putin no, è ucraino. Ho capito, c'era un complotto contro Putin. C'era un complotto contro Putin, va bene. E beh, gli arbitri del pugilato sono in mano a Putin, quelli dell'Europa League saranno in mano a qualcun altro, no? Allora, stiamo delirando. Traffico, torniamo subito. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Allora, io volevo fare un ultimo giochino con Pardo e Filippo Maria Ricci. Far fare a Filippo Maria Ricci la griglia del campionato italiano e a Pardo quella del campionato spagnolo, della Liga. Poi vediamo se sono d'accordo. Allora, Filippo. Sì, Juventus e poi Roma-Inter-Napoli. Juventus-Roma-Inter-Napoli, però molto staccate. È quella della Gazzetta. Sì. Quindi lo dici per ragioni di partito. Ho votato anch'io, spero di aver votato lo stesso. Non me lo ricordo. non ti vuoi contraddire? No. Può darsi che anche mi sia contraddetto, ma non penso. No, non ho cambiato idea in questi ultimi giorni. Sì, staccate, non so di quanto. Non lo so. Secondo me la Juventus che parte con un giro di vantaggio, e poi posso essere d'accordo con te, non so se l'Inter davanti o dietro al Napoli, però le vedo non molto distanti Inter, Napoli e Roma. Pierluigi, la griglia del campionato spagnolo invece qual è? Beh, no, io credo che il Barça sia favorito. Barça, quindi. Barça sia favorito, poi ci sia il Real e poi c'è l'Atletico di Madrid, abbastanza staccato, e anche se il Real Madrid ho sempre la sensazione che, non lo so, perché Zidane ha vinto una Champions, ha vinto una Supercoppa europea e delle cose, soprattutto in Champions, le ha fatte oggettive, delle cose se vuoi anche di puro buonsenso, no? Poi tu magari puoi essere portato ad associare una figura leggendaria come quella di Zidane per forza a un tipo di allenatore con delle idee rivoluzionarie o proprio galattico, invece no, il Real Madrid di Zidane, e questo è stato il principale merito, ha fatto una Champions molto giudiziosa, di grande equilibrio, non ha giocato bene ma ha fatto giocare male l'avversario, cioè è stato molto italiano, no, in questo, e questo comunque è un merito, però io ho la sensazione che se non crescerà la qualità del gioco il Real Madrid alla lunga potrebbe anche avere qualche problema, perché in Spagna già essere a meno 5, a meno 6 dalla prima in classifica, se ti chiami Real Madrid o Barcellona ti fa andare in corso circuito, quindi io penso che il Barça sia favorito e sono curioso di vedere come se la caverà Zidane. Terzo l'Atletico Madrid, quarto non lo so. Quarto posto è vacante. Quarto posto è vacante. Sì, cioè tra, non so, Siviglia lo vedo un po' in difficoltà. Siviglia, Valencia. Sì, non so se Valencia ce la fa oppure l'Athletic Bilbao o l'Espagnol, no. Ha cambiato tanto, vediamo. Vediamo un po', beh, potrebbe essere, secondo me se la giocano con queste le squadre. Tutto per outsider. Perico. E poi no, sul Barcellona secondo me si sono mossi bene sul mercato perché hanno cambiato i rincalzi, no? Alla fine questo, perché voglio dire, la formazione è fatta, a parte Dani Alves che deve trovare un sostituto, sarà uno tra l'ex Vidal e Sergi Roberto, il resto le maglie sono più o meno assegnate, però ci sono dei rincalzi migliori di quelli che sono andati via, e questo rafforza ulteriormente. Ma sei d'accordo con Pierluigi che tratteggia un po' a tinte fosche il campionato Real? Guarda, il Real non ha comprato nessuno, no? Ha ripreso Morata, secondo me una grande mossa in realtà, ed è per quello che lo tengono, perché comunque Benzema si fa spesso male, adesso già domenica non gioca, è un buon ricambio, ha senso un buon ricambio. Il problema vero è che due, cioè rischiano di andare in tribuna, non dico in panchina, in tribuna, gente come James e Isco. Certo. Perché la concorrenza è fortissima. Allora, bisogna vedere come si gestisce, come viene gestito il gruppo. E poi sì, ha ragione Pierre, nel senso che qua c'è Florentino è uno, chiaro, adesso si è tranquillizzato, ha vinto due Champions in 3 anni, diciamo, è nella storia, no, per sempre, però non è convintissimo da Zidane, e quindi possono esserci attriti molto molto rapidamente. E Real Madrid alla fine ed è sempre molto da Casemiro, perché è l'unico giocatore che hanno in quel ruolo. Ma di quale allenatore storicamente è stato convinto Florentino Perez? Esatto. Guarda, dimmi, fammi un nome di un allenatore che lui ha amato. È che l'Ascenzio dal punto di vista degli allenatori è diventata un... ci sono delle cose strane, pensa a Di Matteo. Ma sì, certo. Di Matteo è uno che l'ha vinta e poi però è evaporato. E anche Zidane, nonostante il fatto che l'abbia vinta, e ripeto, con dei meriti, perché secondo me, quantomeno dal punto di vista del realismo, ha portato al Real Madrid delle cose nella primavera del 2016, e che poi comunque l'ha vinta, e quindi le chiacchiere stanno a zero, però secondo me non ha ancora convinto del tutto l'opinione pubblica, no, lo stesso Florentino, no? Sul fatto di poter essere nel lungo termine un grande allenatore. Quindi è un paradosso. È la prima stagione, Pier, è la prima stagione. Cioè, l'agosto scorso era in Serie C, cioè in terza serie, insomma, no? Voglio dire, è la prima stagione, il campionato è lunghissimo, ne abbiamo visti tanti, cioè si è bruciato Ancelotti il campionato, che non è che, no, è uno di primo pelo, Rafa Benitez, non ne parliamo neanche, insomma, è un posto molto strano, non lo sappiamo, la Casablanca, forse fa parte anche del suo fascino, questo continuo, no, brusio, questa continua difficoltà, no, è anche interessante. E non stai mai tranquillo e vediamo. Sì, vediamo se finalmente riuscirà a strappare. Se Zidane riuscirà finalmente a conquistare il cuore di Florentino Perez, sarebbe la prima volta nella storia. Ragazzi, vi saluto. A diventare un allenatore. Vabbè, la griglia te la faccio al volo? Sì. Italiana? Sì. La Juve è mezzo giro avanti, non mezzo giro avanti. Un gruppo a due, che è Roma e Napoli, l'Inter lo mettiamo nella stessa griglia con le prime quattro, poi ci mettiamo dentro la Lazio, il Milan, la Fiorentina e il Sassuolo, che diciamo in seconda fascia fra il quinto e l'ottavo posto, poi ci mettiamo Genoa, Samp, Torino e Cagliari, poi ci mettiamo tutte le altre e un filino dietro Palermo e Crotone. Adesso questa cosa qui, la registrazione, potrete usarla contro di me. E lo faremo con grande piacere, caro Pardo. Grazie ragazzi, ciao, a domani, alla prossima. Ciao Pierluigi Pardo, Filippo Maria Ricci. Allora, domenica non è solo il giorno della chiusura degli ultimi fuochi delle Olimpiadi, non è solo il giorno del campionato italiano, ma è il giorno anche che stiamo aspettando per vedere se la storia della Ducati è una storia vera o un'avventura, come ha scritto il grande Mogol, che ieri è stato nostro ospite, Roberto Ungaro, The Voice. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Dunque, stiamo aspettando con discreta trepidazione questa corsa, proprio per questi motivi, oltre che per capire se Valentino Rossi si stacca ancora dal furbissimo, ormai dallo scafatissimo Marquez, oppure riesce a rimanere agganciato al treno iridato. Tu che allora dici? La risposta, Carlo, è che non è stato un fuoco di paglia in Austria, perché questa mattina il più veloce è stato Iannone, quindi Ducati, ma non finisce qui. Barbera quarto, l'altra Ducati, addirittura davanti a Dovizioso che è quinto, la seconda Ducati ufficiale, e poi abbiamo Scott Redding che è ottavo. Questo significa che Ducati c'è. Valentino è secondo, è stato stamattina a 3 decimi, quindi tutti attaccati. Lorenzo resuscitato, Yamaha fortissima, Brno l'avevamo detto è terzo, Marquez solo sesto, poi settimo Vignales, nono Pedrosa. Sono appena terminate le seconde qualifiche e ti devo dire che Marquez ha fatto il tempo migliore, però è stato un fuoco di paglia verso la fine, perché costantemente è stato per tanto tempo Valentino davanti, poi è arrivato anche Lorenzo, poi Iannone, e alla fine ha dato proprio la graffiata a Marquez. Quindi il suo tempo, che ha girato in 55, sono solo in tre a aver girato in quel tempo, e secondo Iannone, terzo Lorenzo, Barberà fortissimo, si conferma quarto con l'altra Ducati, Rossi è quinto, sembrerebbe lontano, ma sono 3-4 decimi, quindi come tempi sono tutti attaccati. Ma ti dico che di passo Valentino è stato per lungo tempo il più veloce questa mattina. Quindi questo vuol dire che 20 anni dopo, e parliamone, su quella pista dove conquistò la prima vittoria, è di nuovo protagonista. Comunque la notizia è questa, che le Ducati ci sono, non è stato un fuoco di paglia, le Yamaha anche, Honda in difficoltà, Pedrosa è molto indietro, ha finito decimo a queste seconde qualifiche, e Marquez ci mette del suo, come sempre, però è stato un giro secco. Sì. Quindi sul, di passo non è fortissimo, secondo me in gara vedremo che arrancherà un po', potrà, ma se la giocheranno comunque le Ducati, Valentino e Lorenzo. Questa secondo me sarà la gara di prima. Senti, ma Roberto, molti si chiederanno dopo aver visto le Ducati, ma che cosa è stato cambiato nel corso dell'estate? C'è qualche dettaglio che secondo te può aver portato la Ducati da qui dove era a lì dove è stata nell'ultima corsa e dove pare essere adesso a Brno? No, perché è stato un work in progress, cioè un lavoro in corso molto lungo, costante. Sono stati veramente molto sfortunati quest'anno, vuoi per le gomme, che è una variabile che non dipende da loro, e vuoi per diciamo la condizione di guida di Iannone, che ha buttato via veramente due gare, ha buttato giù anche come di squadra. Sono stati molto sfortunati, l'abbiamo detto, questo risultato doveva arrivare prima, quindi la moto è sempre stata abbastanza competitiva, ci volevano le gomme, cioè non è che hanno messo un dettaglio, non è arrivata una nuova carena, un telaio, un forcellone, no, non è questo. Da dentro, da addetti al settore, si sa che la Ducati c'era, doveva solo riuscire a tradurre il suo potenziale. L'ha fatto in Austria perché lì è stato un cerchio che si è chiuso, ma la moto c'era, le prestazioni ci sono sempre state, il problema era metterle per terra e adesso sono riusciti. Tra l'altro adesso è una moto che non consuma le gomme, cioè sì. Non le straccia come ha sempre fatto, perché prima era potenza brutale, mentre invece adesso è una potenza dolce, tra virgolette, cioè che riescono a sfruttare e quindi manda in crisi anche molto meno le gomme. Questo vuol dire che la moto è cresciuta nel complesso della sua prestazione. È una buona notizia, perché vuol dire che da qui alla fine del campionato potremo vederla sempre protagonista, non è stato un fuoco di paglia. Poi lo sai, tu mi insegni che le gare sono un'altra cosa e tutto può accadere, ma staremo a vedere. Poi c'è anche la giornata di domani che sarà decisiva. È chiaro, chiaro. Grazie Robby, ci sentiamo. Dimmi. No, niente, la notizia è che 20 anni dopo quel ragazzino lì, ragazzi, è sempre lì. 20 anni dopo il ragazzino è sempre lì e secondo me potrebbe avere, proprio per queste ragioni e su questa pista, delle motivazioni particolari. Vabbè che lui le trova ovunque, le motivazioni particolari, però hai visto mai che non voglia chiudere questo cerchio. Esatto, dai. Ci sentiamo lunedì. Ciao, un saluto. Ciao Roberto. Ciao, buon weekend. Ciao Roberto Ungaro. Dunque aspettiamo Brno con grande fiducia, appunto. Antonio da Brescia. Antonio? Pronto? Dica. Pronto? Dica, veloce, dica. Ascolti, sì. Volevo intervenire sul fatto di Ivan il Terribile, come avete accennato all'inizio della trasmissione. Direi che mi preoccupa la questione sicurezza negli stadi in Italia, perché se questo personaggio si può permettere di venire in Italia quando il divieto di mettere piede sul suolo italiano va a fare la sua bella presenza e tutto quanto, mi sembra che dal punto di vista della sicurezza e dal controllo dei tifosi, chiaramente quelli particolari, sia abbastanza scarsa in Italia. Sì, non solo in Italia, perché avevamo visto esibirsi di recente anche in altri luoghi, Antonio. Comunque il problema a cui lei fa riferimento è reale, è un'affermazione di estremo buon senso, che però purtroppo adesso non ho il tempo di commentare oltre perché devo chiudere il programma. Quindi ringrazio Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiori e Alvise Falzone in redazione. Ci sentiamo stasera dalle 18 alle 20 per l'appuntamento olimpico. Tutti convocati alle Olimpiadi. A dopo. Sono andato a cercare notizie, ma oggi non c'è niente. Ci vediamo stasera.